Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, continuiamo la nostra conversazione con Cristina Lavecchia, interrotta la scorsa puntata. Buonasera. Buonasera. Direttrice di Climate Consulting, meteorologa. Ieri abbiamo scoperto, in buona sostanza, che non disponiamo di misure accurate di alcune importanti variabili meteo, in particolare le temperature locali. Perché ci interessano? Perché la rigidezza del clima è un parametro cruciale usato dalle società di servizi energetico, le ESCO, per stimare che cosa? Il risparmio energetico che si può ottenere in un edificio dopo averne migliorato impianti e involucro. E da questo risparmio dipende in modo critico la ripartizione dei benefici appunto tra i clienti delle ESCO, le ESCO stesse e le banche. In una situazione tipica, infatti, queste aziende che cosa fanno? Intervengono a proprie spese, migliorando sia gli impianti che l'involucro dell'edificio, abbattendo le spese di riscaldamento e appunto intascando in parte o in tutto per un certo numero di anni il risparmio generato. Ebbene, dunque Lavecchia, oggi nei contratti di servizio energia, che appunto sono considerati cruciali per questa partita dell'efficienza energetica nell'edilizia italiana, le chiedo in che modo si tiene conto del parametro climatico. Allora, in ambito residenziale si considerano o contratti forfettari o contratti a kilowattora. Vuol dire che indipendentemente da come è rigido il clima, quindi da come va realmente il clima, l'importo è quello lì, cioè si paga sempre, cioè si stima che il clima sia immutabile sostanzialmente, sì. Si assume questo. Sì. Per altri tipi di contratto ci sono invece forme più sofisticate di valutazione di questi aspetti, si fa una misura. Sì, o comunque si considerano i gradi giorno della località reperiti da enti istituzionali annualmente, per esempio, meteorologici. Sì, quando l'importo inizia a essere importante, quindi c'è una consuntivazione in base, diciamo, un ricalcolo del contratto, dell'importo del contratto in base ogni anno, un adeguamento effettivamente, un adeguamento annuale sostanzialmente, sì. Alcuni contratti lo prevedono, però tutto dipende poi appunto dalla bontà di questi dati meteorologici, sì. Che cosa comportano delle valutazioni scorrette di questi parametri? Ci riesci a fare un esempio? Sì, consideriamo Milano. Se un edificio spende 100.000 euro di riscaldamento e si trova in Milano centro, se lo stesso edificio, quindi stesso involucro, stesso impianto, fosse zona ovest, zona San Siro, spenderebbe il 10% in più, quindi 110.000 euro. Idem se fosse, diciamo, a sud, periferia, okay, sud di Milano. Qui proprio... Forse a nord, no, spenderebbe circa 105.000 euro. Ah, ok, quindi un 5%. Quindi è importante la localizzazione, perché ci sono le cosiddette isole di calore cittadine, quindi non è costante la temperatura all'interno della città. E poi, come abbiamo spiegato anche nella puntata di ieri, le variazioni stagionali anno per anno possono essere anche molto più sostanziose, anche del 20%, se ho capito bene. 30%, assolutamente. Ecco, quindi l'errore è di quelle dimensioni lì. Dunque, voi vi occupate, come abbiamo detto, di fornire questi dati, state costruendo una rete nazionale di stazioni meteo urbane, no? Ci sono però diversi enti che per una ragione o per l'altra prendono delle misurazioni, no? Ci sono le centraline, quelle dell'inquinamento in giro, che prendono anche misurazioni di tipo meteorologico, ci sono gli aeroporti. Perché queste misurazioni non vanno bene? Allora, diciamo che ciascun ente misura in relazione al proprio obiettivo, quindi anche la precisione, la manutenzione della stazione, i tempi di taratura possono non essere adeguati allo scopo di una contabilizzazione energetica. Ecco, facciamo un esempio, insomma, se uno mette il termometro attaccato alla parete per misurare la temperatura esterna o lo mette a 5 metri di distanza da qualunque parete, tipicamente trova delle differenze enormi, no? Sì, anche dell'ordine di 2-3 gradi, cioè esistono delle regole dell'Organizzazione, certo, Mondiale della Meteorologia, che spiegano come rilevare la temperatura dell'aria, se no non si sa che cosa si rileva. Ecco, e invece voi addirittura, per quanto riguarda i contratti di servizio energia, avete bisogno di una precisione che va addirittura al decimo di grado, se ho ben capito. Ecco, ma che cosa cambia un decimo di grado più o uno in meno? Non so se si può dare un'idea. Diciamo che dipende dall'utente finale, nel senso che se è una grossa utenza, un'industria, un ospedale, un complesso scolastico, un centro direzionale, in cui le bollette sono dell'ordine di parecchie centinaia di migliaia di euro, la precisione al decimo sono decine di migliaia di euro l'anno. Okay. È un'esigenza che è nata una decina di anni fa, soprattutto dai grossi fornitori energetici. Ed è un'esigenza nuova, per questo insomma i vecchi sistemi, le vecchie centraline non sono effettivamente adatte a questo scopo, sì, sono nate con sono per nate rispondere con finalità. Sì. Grazie alla vecchia. Grazie a voi, buonasera.